Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In Francia è ormai guerra aperta tra i presidi, che vietano gli abiti succinti, e le studentesse, che li sfidano presentandosi in minigonne ridottissime. Torna alla protesta in minigonna. Incuranti del freddo che attanaglia l'Europa, gli studenti francesi si sono passati parola e si presentano a scuola nei licei d'Oltralpe vestiti di poco o nulla. Tutta colpa di un preside incauto che, stufo di vedere dietro i banchi di scuola mutandine griffate che spuntavano dai pantaloni a vita bassa, piercing e abiti troppo succinti, ha deciso di vietarli, scatenando le furie estetico-libertarie di centinaia di teenager. E così, uno dopo l'altro, si sono accesi i licei di Francia. La rivolta è cominciata al Jeffrey Saint-Hilaire, nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi, per poi continuare al Condorcet d'Arcachon nella Gironda, la terra di Bordeaux e in altri istituti del paese. Leader una ragazza, una diciassettenne, Léa de Dieu, che è riuscita a persuadere i suoi compagni a presentarsi in classe in super minigonna, le ragazze, o in bermuda, i ragazzi, al grido di «Siamo a scuola, non in prigione». Performance che per ora è costata 3 giorni di sospensione con la motivazione che gli studenti erano a rischio pedofili nel tragitto verso la scuola. Torna dunque la protesta e, come prevedibile, in chiave fortemente estetica, dato lo spirito dei tempi. Già una volta, di fronte a ben altre ondate rivoluzionarie, aveva avuto gran momento il fortunato titolo di una commedia di Umberto Simonetta, «Arriva la rivoluzione e non ho niente da mettermi». Da allora le minigonne, gli eschimi, le borse della tolfa erano per lo più elementi di contorno, anche se necessari per riaffermare la propria diversità rispetto al modo di vestire borghese e tradizionale. La nuova gioventù, la generazione post-Barbie, che forse vuol fare la rivoluzione, parte da anni di idolatria del corpo e dei suoi ornamenti, comincia presto ad essere schiava dello specchio ed è maestra già a 12 anni nell'arte di migliorarsi, valorizzarsi, addobbarsi. E perciò, se mai nuovo 68 sarà, stavolta lo sarà in chiave tutta estetica. Michel Fize, sociologo francese, ricercatore della CNRS specializzato in gioventù, interpellato dal quotidiano The Independent, non si è dichiarato sorpreso dalla rivolta degli studenti che vogliono difendere un loro dress code fortemente provocatorio. D'altra parte, ragiona Fize, come potrebbe essere altrimenti con dei mass media e una società che propongono modelli ipererotici? Il grande educatore oggi è il piccolo schermo. Con che faccia possiamo rimproverare a una teenager che mostra troppo quando la TV fa esattamente quello a tutte le ore? È come se questi studenti cugini mettessero in scena la loro piccola neorivoluzione partendo dal loro vissuto, da quella cultura idolatrica del corpo contemporaneo che vivono ogni giorno e che rimbalza dagli schermi, dalle fotografie, dalle vetrine dei negozi, ma anche dalle aule parlamentari, dagli incontri al vertice dei potenti internazionali, tutti primariamente preoccupati di quel che sembrano piuttosto che di quel che pensano. Preoccupazione e schiavitù che accomuna gli umani di ogni latitudine. Che dire delle garbate studentesse iraniane che, a differenza delle loro coetanee parigine, protestano con il velo e non con il piercing, ma ugualmente mettono molta cura e molta grazia nello sceglierlo, nel modularlo, nell'indossarlo. Legittime, più che giustificate dallo spirito dei tempi, come si è detto, le nostre deduzioni sociologiche. Ma non sarà poi troppo facile liquidare così la nuova ondata francese? Il dubbio sorge perché la stessa Léa, interrogata, ribalta tutta la faccenda facendo, con mediatica sapienza, una bella capriola filosofica. La nostra protesta, dice, più che con bisogni narcisistici o estetici, ha a che fare con una vecchia conoscenza della rivoluzione francese, la libertà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Luisa Agnese, Francia, sfide della minigonna contro presidi bacchettoni, dal Corriere della Sera del 24 dicembre. La diffusione dei telefoni cellulari tra bambini e adolescenti offre a molti genitori la possibilità di disporre di una sorta di guinzaglio elettronico per conoscere in ogni momento dove sono i loro figli e che cosa stanno facendo. Una recente ricerca analizza in che modo i ragazzi vivono il loro rapporto con il cellulare, sia come mezzo di comunicazione, sia come strumento per un controllo a distanza. Chi chiamano e da chi sono chiamati i bambini e i ragazzi di questa fascia d'età? Siamo abituati a considerare l'uso del cellulare da parte dei bambini e delle bambine, così come ci viene rappresentato dalla pubblicità, in termini di strumento per comunicare con gli amici, per organizzare incontri, per far festa, per dialogare al riparo dagli adulti, insomma, come mezzo di emancipazione che li pone in una condizione molto diversa rispetto a quando i loro coetanei non disponevano di un simile strumento. Considerando però le risposte dei nostri intervistati, possiamo intravedere una realtà un po' diversa e più articolata in ragione dell'età di coloro che rispondono. In generale, gli intervistati dichiarano di utilizzare il cellulare per chiamare prevalentemente i genitori e ricevono il numero maggiore di telefonate da loro. Emerge pertanto una sfera d'uso prevalentemente ristretta all'ambito familiare. Nella scuola primaria, i bambini e le bambine lo affermano diffusamente. Con il crescere dell'età, le cose sembrano cambiare. In terza media si dichiara di utilizzare il cellulare per chiamare prevalentemente gli amici e si è da loro chiamati. In questa fascia d'età, il cellulare assolve alla funzione relazionale di mantenimento della rete amicale e i genitori non vengono menzionati. Ci si potrebbe chiedere se questo dato corrisponda alla realtà, nel senso che i genitori davvero smettano o diminuiscano le chiamate ai loro figli o piuttosto che i ragazzi abbiano imparato a convivere con la funzione di collegamento o di monitoraggio dei genitori, mentre invece risulta più importante, e quindi degno di menzione, il ruolo del cellulare come strumento per rimanere in contatto con gli amici. Nel caso dei bambini della scuola primaria, invece, il bisogno di maggiore aiuto da parte dei genitori, avendo ancora una ridotta autonomia negli spostamenti, si pensa ai bambini di città, ad esempio, rappresenta per loro la funzione fondamentale del cellulare, anche se non è da escludere l'uso per chiamare qualche amico. In ogni caso, alcuni di questi bambini fanno riferimento anche a cellulari adatti a loro con numeri prefissati e blocco di chiamate ad altri destinatari. Il che ci segnala la cautela che i genitori pongono nell'evitare situazioni incresciose, se non di vero pericolo, che il cellulare può favorire. Complessivamente, inoltre, si deve aggiungere che ciò che caratterizza la telefonata con i genitori è lo stile delle comunicazioni. Con loro ci si scambiano informazioni rapide, dettate dalla necessità o dall'esigenza di rassicurazione. Sono arrivato, sto bene, esco a tale ora, mi vieni a prendere e così via. A cui sia i più piccoli che i più grandi del nostro campione fanno riferimento, senza segnalarne il peso o il controllo eccessivo. Come ha detto uno di loro, i genitori si sa, si preoccupano, dimostrando così di accettare di buon grado lo scotto da pagare per poter stare in un altro posto più a lungo rispetto al previsto. Questo diverso collegamento con i genitori, non fisico ma emotivo, presenta una modalità molto interessante che fa riflettere sulla particolarità della relazione indotta dal cellulare. I figli, infatti, mediante questo strumento acquisiscono una maggiore libertà di movimento e di relazione con gli altri, ma nello stesso tempo rimangono, forse più a lungo che in passato, sotto il controllo del genitore. Il cellulare, in altre parole, è una sorta di oggetto transizionale, alla stregua del peluche che i bimbi si portano dietro quando sono fuori casa, quando vanno a scuola, che permette loro l'allontanamento senza avvertire terribilmente i rischi del distacco. Ma mentre il peluche prima o poi si rovina, si consuma e ci si rassegna a buttarlo, nel caso del cellulare la funzione di collegamento rimane intatta e finisce quasi, al contrario, per ostacolare la separazione che come individui prima e dopo tutti dobbiamo realizzare. Quando si chiede a che età è necessario possedere il cellulare, bambini e ragazzi indicano spesso un'età più avanzata della loro, che pure posseggono il cellulare. Ciò vuol dire in realtà che tale possesso non risponde a un loro effettivo bisogno, quanto piuttosto a quello di un adulto che in tal modo sa che in caso di necessità può essere facilmente raggiungibile. È opportuno riflettere su questa anticipazione perché è un tratto di molti genitori e adulti attuali rispetto ai bambini a cui sono legati. La disponibilità di giocattoli, di strumenti attraenti di cui da piccoli non si disponeva, fa sì che si comprino ai propri bambini anticipandone il desiderio. Questo tratto, sebbene molto comune e diffuso, va piuttosto sorvegliato, perché la capacità di desiderare, di attendere la soddisfazione di questo desiderio, è un aspetto fondamentale della crescita, che invece andrebbe riconosciuto e preso in carico dagli adulti. Non si vuole qui sostenere un atteggiamento spartano in un certo senso rigido, ma soltanto una posizione equilibrata in questo atteggiamento oblativo, perché non è positivo di per sé, soprattutto quando rispondendo a un bisogno dell'adulto finisce per togliere spazio ad aspetti importanti nella crescita dei bambini. L'uso più ampio, come era facile prevedere, si riferisce per i più piccoli ai contatti con i genitori e poi con gli amici. Questi ultimi non sono più quelli vicini in termini di spazio, ma possono essere anche lontani. In tal senso, il cellulare ha ampliato lo spazio di relazione anche dei bambini. Se si chiede tuttavia a che serve avere un cellulare, la risposta più diffusa è quella di poter chiedere aiuto se si è in difficoltà. Questa immagine di strumento di emergenza contrasta con quella più nota e potentemente rappresentata dalla pubblicità, gioiosa e coloratissima. Tuttavia, il fatto che questa funzione sia presente anche nelle parole degli studenti statunitensi fa notare che il sentimento di pericolo possibile caratterizza la percezione del cellulare e rimanda più complessivamente al generale senso di incertezza e pericolo che contraddistingue la società occidentale attuale. Approfondendo l'analisi, si rileva che la funzione di strumento per le emergenze possibili trova conferma anche nella risposta relativa a chi effettua la ricarica, solitamente mamma o papà. Anche quando i bambini e i ragazzi ricevono una paghetta, infatti, a ricaricare il cellulare provvedono i genitori. Ciò sottolinea la funzione ansiolitica per gli adulti, i quali, gestendo in prima persona la ricarica, si mettono al riparo da possibili distrazioni dei figli che, magari preferendo fare altre spese, possono rinunciare, ritardare o differire la ricarica. La funzione di strumento per l'emergenza è segnalata tanto dai soggetti che vivono in città quanto da quelli che vivono in provincia. Ci si sarebbe aspettato che nella provincia una simile funzione fosse meno segnalata, dal momento che le distanze sono più ridotte e la prossimità con gli adulti di riferimento risulta più facile. Le implicazioni di questo atteggiamento degli adulti, sicuramente protettivo e disponibile all'aiuto materiale, sono interessanti dal punto di vista educativo e sociale. Partendo da quest'ultimo, si può rilevare come la sensazione di pericolo che si accompagna alla funzione così frequentemente segnalata fornisca un'immagine di rischio diffuso, confermato anche dal fatto che non appena si allontanano da casa, anche solo per una gita scolastica e quindi sotto la tutela di altri adulti, i bambini e i ragazzi ricevono un cellulare. La paura percepita dai genitori o l'esigenza comunque di rimanere in contatto è tale che fa da fondamento all'acquisto del cellulare, anche se poi nessun soggetto riferisce di situazioni di effettivo rischio o pericolo in cui è stato utile avere il telefonino. Dal punto di vista educativo, inoltre, il fatto che la ricarica sia effettuata dagli adulti segnala una più ridotta attenzione allo sviluppo dell'autonomia da parte dei figli. Il cellulare, infatti, potrebbe apparire come uno strumento emancipatorio, perché consente di allontanarsi sapendo che in caso di bisogno si può essere raggiunti. Ma questo collegamento, fondato sull'eventualità del pericolo, invece, fa capire che i genitori e gli adulti in genere trasmettono la loro paura direttamente ai bambini e ai ragazzi, con scarsa considerazione della funzione di accompagnamento verso l'autonomia che pure un adulto deve rivestire. Quasi indipendentemente dall'età, almeno fino a 13 anni per i nostri intervistati e ben oltre nelle parole degli studenti statunitensi, il filo diretto con l'adulto risulta essere l'esigenza primaria che fonda l'acquisto e il possesso del cellulare da parte dei figli. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Daniela Brancati, Anna Maria Aiello e Pier Cesare Rivoltella, Guinzaglio elettronico, il telefono cellulare tra genitori e figli, Donzelli Editori, 106 pagine, 15 euro. Letture di Radio 24. La chiusura di un 2009 di profonde e a prima vista incolmabili fratture politiche tra centro-sinistra e centro-destra in materia di riforme, un duomo in miniatura, lanciato contro il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sembra aver rotto l'incantesimo offrendo alle due parti il clima, questa sembra essere la parola d'ordine, per un ritrovato dialogo. Il costituzionalista Michele Ainis, su Il Sole 24 Ore di mercoledì 23 dicembre, parte proprio da qui per immaginare le quattro possibili vie da percorrere nel caso, oltre al clima, maggioranza e opposizione trovassero anche l'accordo per farle, le riforme. Una statuetta del Duomo di Milano ha schiuso i battenti alle riforme. anche se avremmo preferito uno strumento meno contundente. Però il suo effetto è stato pari a un sedativo per i bollenti spiriti che fin qui impedivano qualunque trattativa. Da un giorno all'altro, destra e sinistra parlano all'unisono. La Costituzione si può modificare. In quali norme, con quali presupposti? Si vedrà, non è un problema. Per il momento la discussione gira attorno al metodo, alla modalità più rapida e sicura. E anzi, i più sostengono che una procedura vale l'altra, tanto ciò che conta è l'intenzione. Errore. In queste faccende, il successo dipende dal percorso sul quale si incamminano i viandanti. Ecco allora una mappa, o meglio un vademecum, con il profilo delle diverse soluzioni. A occhio e croce sono quattro, come gli elementi del nostro pianeta. Assemblea Costituente. È l'indicazione più alla moda. La propongono Cossiga, Frattini, Buttiglione. Un drappello di ex socialisti, fra i quali spiccano Martelli e Formica, nonché vari altri esponenti della Prima e della Seconda Repubblica. Non che l'idea sia particolarmente originale. Nel dicembre 2000 ci aveva fatto un pensierino pure Silvio Berlusconi. Andando più a ritroso, possiamo rievocare il messaggio al Parlamento di Cossiga nel 1991. I COBAS, comitati di base per l'Assemblea Costituente, fondati da Segni nel 1996. La proposta di eleggere una costituente in contemporanea alle europee del 1999, subito appoggiata dal presidente della Camera Violante. Le analoghe proposte di Mancino, all'epoca presidente del Senato, Martinazzoli, Veltroni. Domanda. E allora perché, figlia di cotanti padri, la fanciulla non è mai andata in sposa? Risposta. Perché le assemblee costituenti vengono generate dalla storia, non dai colpi d'ingegno. Hanno il potere di riedificare su nuove fondamenta la società politica e civile, e dunque s'affacciano quando il terreno è ingombro di macerie, dopo una guerra, una tirannia, un'indipendenza nazionale pagata con il sangue degli eroi. Ma c'è una guerra nelle nostre strade? No, e sarebbe meglio non evocare i suoi fantasmi. Bicamerale. Qui i tifosi sono meno numerosi, anche se vi figura un nome illustre come Giulio Tremonti. La ragione di questo scarso appeal dipende a sua volta dalla storia, o meglio dall'esperienza che ne abbiamo maturato durante gli ultimi decenni. Tre tentativi, tre fiaschi solenni. Nell'ordine, la Bozzi, chiuse ingloriosamente i propri lavori nel 1985. La De Mita Iotti, istituita nel 1992. La D'Alema, nel 1997. Vogliamo riprovarci? Vogliamo davvero battezzare un altro parlamentino di senatori e deputati come se due camere non fossero abbastanza? Se sarà questa la nostra decisione, dovremo tuttavia confezionarla attraverso una doppia predecisione. In primo luogo sui poteri della bicamerale, in secondo luogo sulla procedura per istituirla. Se infatti desideriamo conferire poteri straordinari, se dunque intendiamo derogare al normale procedimento di revisione disciplinato dall'articolo 138, saremo costretti in ogni caso a scrivere una legge costituzionale che introduca l'eccezione. In altre parole, dovremo usare l'articolo 138 per liberarci dell'articolo 138, ma di questi tempi il rischio è di impiccarci sui cavilli senza mai montare a cavallo. Convenzione. È una via di mezzo fra costituente e bicamerale, perché verrebbe eletta fuori dal Parlamento, senza l'autoreferenzialità della bicamerale, tuttavia lasciando al Parlamento l'ultima parola. Questo almeno nella visione proposta dalla Fondazione Don Accattin nel 2002. Nel 2007 Amato rilanciò l'idea con alcune varianti marginali. Nei giorni scorsi l'ha rilanciata a sua volta Calderoli, concependola però come organismo parlamentare integrato da rappresentanti del territorio. Insomma, grande confusione sotto i cieli. Per orientarci fra le cose e le parole, è utile rievocare l'archetipo di questa assemblea legislativa. In origine era la Convention Nationale, operò a Parigi fra il 1792 e il 1795. Ne fece parte pure Robespierre. Lui, però, finì ghigliottinato per ordine della Convenzione stessa. Non è un buon viatico per gli aspiranti candidati. Procedura ordinaria. È una soluzione meno eroica, che difficilmente consegnerà i libri di storia ai suoi protagonisti. Sarà per questo che fatica a trovare dei padrini, se si eccettua qualche esponente dell'opposizione, e il solo cicchitto tra le file della maggioranza. Tuttavia, avanzare attraverso riforme chirurgiche e puntuali, rispettando il metodo scolpito nell'articolo 138 della Costituzione, presenterebbe un arco di vantaggi. In primo luogo eviteremmo di delegittimare ulteriormente la Carta del 1947. In secondo luogo potremmo spacchettare la riforma per oggetti omogenei, distinguendo per esempio la giustizia dalla forma di governo. Ne guadagneremmo in chiarezza e ci guadagnerebbero pure gli elettori durante il successivo referendum, che a quel punto si articolerebbe su altrettanti quesiti, anziché su un prendere o lasciare in blocco. In terzo luogo, appesantire l'iter di questa revisione con procedure e passaggi eccezionali significa moltiplicarne i rischi, le trappole sulla sua riuscita.